Pari o dispari? Dispari. Ma come? Dai! Pari o dispari? Dispari. Bim, bim, boom, bam, bam. Pari, cominci. Quindi? Tu. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Drago. È un saluto da capo, però ecco. Funziona male se cominci tu, è meglio bentornati. Perché è meglio bentornati Chiedo Asilo, un saluto da capo. Vabbè, solo l'abitudine, dai, allora comincia tu, dai. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Molto meglio, molto meglio. Hai sentito? Sembra che Pisapia venga a fare l'imbianchino qui all'asilo Stoppani. Pisapia chi? Il sindaco o il padre avvocato? Certo, no, il padre avvocato ormai è morto. Pisapia sindaco vuole dimostrare in una botta sola che la casta non esiste e che i tagli ai comuni, Drago, non permettono più di svolgere nemmeno la manutenzione ordinaria. Questo si sa. Quindi se devi imbiancare l'asilo, cosa fai? Non ci sono i soldi per gli imbianchini e quindi lo fa il sindaco. Ma quando arriva Pisapia? Qui? Non ma si sei sa, fuori, stanno vabbè. Aspettando tutti, Suor Dentona, Gino il Bidello, tutti quanti. Una parata militare. Viene comunque è vero, Cappa, che ci sono tanti sindaci dei comuni piccoli che si sono messi personalmente a restaurare gli edifici scolastici, a ripulire i parchi dalle cartacce. Però appunto sono nei paesini piccoli dove il sindaco è davvero uno del popolo. A Milano, Pisapia, la vedo dura. No, ha scritto che veniva, verrà. Ma non era più comodo coinvolgere noi due? Siamo qui a gironzolare come due disoccupati. No, piuttosto Gino il Bidello. Ma lui fa dire? Già il bidello, capa. Vabbè, noi facciamo già. E facciamo già cosa? Facciamo un... Non ho ancora capito bene, ma infatti, qualcosa la facciamo già. Se no, scusa, io non ho voglia di mettermi lì a imbiancare. Non poi non sono capace. Imbiancare. Tu come capelli ti sei già imbiancato, non hai fatto sforzi. Quindi. Vabbè, tu hai il naso lungo. Cosa c'entra? Niente, c'è il naso lungo, quindi. No, è mio. L'ho visto prima io. E io l'ho visto prima del tuo prima. E io prima di prima del tuo prima. E io l'ho visto che non esistevi ancora. E io è la prima cosa che ho mai visto. E io lo vedo ora. E io ti pesto. Facciamo a turno. No, facciamo a botte. Facciamo io di giorno e tu di notte. Facciamo io estate e tu inverno. Facciamo io nel cielo e tu all'inferno. Facciamo a chi fa prima. Facciamo a chi fa rima. Ce lo giochiamo a correre. Ce lo giochiamo a carte. Ce lo giochiamo al tiro della corda. Che cos'è che era mio? E chi si ricorda? Chiedo Se in Argentina il ministro delle finanze e candidato vicepresidente è un tizio che si presenta ai comizi con una Fender Stratocaster e fa dei veri concerti rock con la band dei Mancia de Rolando, allora di che cosa ci stupiamo qua? Infatti. Da noi ministri, d'accordo, erano vallette, ma hanno chiuso con quella carriera, no? Ma come? Ma Bossi mica era una valletta. Io sto parlando dell'argentino Amado Boudou, 48 anni, rocker, ministro di una delle nazioni più importanti del mondo, cioè l'Argentina. Ma Maroni era una valletta. La Carafagna era una valletta. Maroni suona valletta Stiere, ma hanno smesso tutti e due. Non è che Maroni si presenta in pubblico col Farfisa o il Piano Rhodes. Peccato, perché secondo me incredibilità ci guadagnerebbe. Vabbè, sì, col Maroni, Piano Rhodes, col Farfisa, non so. Certo che l'Argentina offre sempre spunti interessanti, però, perché è una nazione reduce da un fallimento, un default completo come quello che aspetta anche l'Italia, la Grecia, il Portogallo, eccetera. Ma si dice default o Defoe? Perché alcuni lo chiamano come William Defoe, l'attore. Anche come la Renault. No, non si scrive uguale. Sì, si scrive uguale, però non so se si il dice default. In francese o in inglese. E allora l'Argentina è reduce da un default completo. Ma meglio default. Default completo. Dai, ora in crescita, è guidato da una bella ragazza vedova indicata come la nuova Evita Perón. E tra poco avrà un candidato vicepresidente che suona la chitarra. Anzi, sentiamo Amado Boudou mentre immagina di essere Carlos Santana. Bravo però, Il cantante. Oye, come va? Ministro. Lui è praticamente è il Tremonti dell'Argentina. Senti cosa che tiro che ha. Me gusta el pere. Non so, sei tu che capisci lo spagnolo, Drago. Veramente, parli. Sto capendo niente. Poi questo parli è l'argentino, spagnolo fluente. Zanetti. Vabbè, però insomma, tu te lo vedi Tremonti che fa così. Adesso aspetta, non che è la chitarra, una persona seria, però no, scusa. Ma no, il ministro dovrebbe essere una persona seria. Ma noi siamo alle ricerche di persone serie. Però infatti, purtroppo. Le persone serie non ci sono più. Sono tutti quanti. In radio, no? Andate alla TV. avanti. No, no, grazie, ci siamo. Vabbè. Allora, vi abbiamo invitato a mandare la vostra lista di 5 persone sarie con cui andare a cena e oggi vi leggiamo la lista di Nicoletta Brenna. Allora, Nicoletta vuole invitare a cena tutti insieme, tutti allo stesso tavolo. Margherita Hack, Alda Merini, Rita Levi Montalcini. Ma come, Rita Levi Montalcini? No, no. Ah, no, ah, vabbè. Emma Bonino e anche Emma Marcegaglia. Vabbè, comunque questa è una cena impossibile, come le interviste impossibili, perché una delle 5 è morta e un'altra l'avevo detto che Alda Merini, è un'altra più di 100 anni, quindi ormai non partecipa più alle cene. Nicoletta, la lista non può comprendere gente deceduta, se no si fa presto a fare l'elenco, scusa. Giulio Cesare, Machiavelli, tutti seri, sì. Leopardi, Berlinguer e De Gasperi. Vabbè, allora rilanciamo la sfida. Scrivete sulla nostra bacheca di Facebook 5 persone che voi ritenete serie, sarie, e con le quali vorreste organizzare una cena. Una ciana. E questa cosa della ciana aggiunge una variabile interessante, perché a questo punto siete costretti a individuare persone sarie ma non noiose. Questo è molto difficile. No, perché scusami, la cena non c'è scritto da nessuna parte che debba essere divertente. Vabbè, insomma, vai a cena per annoiarti. Poi parli tu che non sei né sario e non sei nemmeno divertente. Peggio di te è proprio difficile, Se ti metti a cucinare poi... Borse in disfatta. C'ho delle mutande usate. Chi vuole delle mutande usate? Usate, capa. Guarda proprio... che in Giappone vanno alla grande. Sì, ma solo di ragazzine delle scuole, non so, 12 anni, 13 anni. Ma come fanno a conoscerle? Io c'ho dei boxer XXL. No, c'è molta differenza. E comunque qui al mercatino globale di Chiedo Asilo le cose vanno alla grande, altro che nel mercato globale, quello tutto scritto maiuscolo. Sì, qui però, siamo minuscoli, guarda, sì, ma gli oggetti bene. Di scambio riflettono comunque una grossa crisi. Una perché? Crisi difficile da recuperare. Perché ci sono molte offerte di beni di consumo superflui che la gente non può più permettersi, tipo televisori ultramoderni grandi quanto uno schermo del cinema, mai finiti di pagare, che te le tieni sul groppone, o le automobili, oppure i gadget elettronici tipo tablet, o gli e-reader, quelli su cui tu ti siedi, Vabbè, lo metti nella tasca posteriore, non tirare fuori quella cosa lì, e il tuo piccolo e-reader si frantuma in mille per pezzi. Sempre. Questo è un po' il cimitero dell'acquisto a rate, questo mercatino, capito? Però i poveri oggetti di lusso apparentemente accantonati e destinati a un inglorioso pensionamento precoce possono ancora sperare grazie al baratto. Ma chi al giorno d'oggi rifiuterebbe 10 kg di carne di prima scelta in cambio del tuo e-reader spaccato nella tasca o del televisore che non ho ancora finito di pagare? Chi rifiuterebbe la biancheria stirata tutti i giorni in cambio di un iPad? Se anche voi la pensate così, partecipate senza indugi al mercatino globale di Chiedo Asilo e dateci la stecca, perché naturalmente bisogna che ci guadagniamo. La stecca ce la danno sulla testa. Bueno malata. Malata o mulata? Allora 02 46 52 44 95. Continuate a lasciare i vostri messaggi, a lasciare i testi della canzone Gildo Gildo, a lasciare la lista di persone serie. Sarie. E vabbè, cosa fate salire qui? No, attenzione. A domani, Chiedo Asilo. Sei malata, puoi anche non venire.